Maddalena Maria? Cosa è rimasto di te? Cosa è rimasto di te? Cosa è rimasto di te? Cristo nudo. Cristo dei cani e dei segreti. Cristo di legno arroventato e odore di mosto. Amante contratto sui bordi di lenzuola amadide. Cristo succo mio. Cosa è rimasto? Amore. Vedi, ora si mettono a chiamarti eroe, ti mostrano un morto, tanto per tenerti bene sotto controllo come i carcerati, per sentirsi sicuri che dai chiodi non ci scendi più a dire cose che non vanno, un pezzo di carne da adorare e via. È più facile baciarti quei piedi di morto che sentirti vivo. Danzare dentro. Povero Iddio. Povero Iddio. Sacrificato come me a fare la puttana. A cambiarsi d'abito per ogni dichiarazione di guerra e di vendetta. Il Dio da mettere sulla bocca degli eroi, dei sanguinari, dei redentori. Il Dio che sarà una spada. Il calore dei roghi, i lager, le galere, sarà il gas, l'atomica e anche l'immaginazione, sarà il sonno, la bugia, la paura, ladra. Cosa è rimasto? Di noi, amore, cosa è rimasto? Cosa è rimasto di questo amore? Cosa è rimasto di me? Un mucchietto di ipotesi, qualche storiella da birreria e manco il sapore lontano di una donna. Che cosa è rimasto di tutto questo amore colato? Una puttana, da sempre puttana. Non c'è giorno su questa terra che non sia passato senza questa eco, questa spina feroce di giudizio implacabile, gli occhi puntati come fucili alle carezze e un sigillo sempre dei tempi. Ah, Maddalena, ti chiamano puttana perché altrimenti non sanno dove metterti, così fatta come sei. Ci sono territori dove noi non possiamo mettere bocca, dove non siamo che botteghe da aprire e chiudere a orario di scambio. A volte ti chiamano puttana, altre santa. Se va meglio, sei solo una mamma devota, una mamma dolorosa a mettere giù figli nel pianto. Ma di te, Maddalena, di te che cosa è rimasto? Ho sempre avuto un coltello nella pancia ficcato dentro. Non sapevo che fosse una malattia. La stretta che ti prende le viscere e certe volte dà scossa a tutto il corpo. La gola che si apre, gli occhi come fuochi e un attimo di infinito tutto lì. Di libertà, senza pensieri, solo umori. Io non sapevo fosse una malattia. Sentire questa scossa, io la chiamo orgasmo di Dio. Ma l'amore, Maddalena, l'amore è sudicio se te lo fai addosso così. L'amore è da calibrare, misurare, vendere a dettaglio. L'amore seleziona, è esclusivo e di sicuro non è femmina. Non è femmina, Maddalena. L'amore non è femmina. Eppure sappiamo, noi sappiamo tante cose. Noi sappiamo la nascita. Mettere in carne anima e spirito. Sappiamo il lavoro intenso di legatura, di assemblamento che si fa in pancia e fra le gambe, il primo miracolo che anche Dio alle volte non si capacita, di quanto fiato si abbia in corpo quando si spinge alla luce una nuova creatura. Noi sappiamo il compito del commiato, dell'accompagnare via fuori dalla porta, dell'incoraggiare l'anima a tornare fra i suoi cari, lo spirito al tutto, da sempre sappiamo questa storia benedetta di accoglienza e di separazione. Sì, sappiamo tante, tante cose, tante cose. Eppure tante volte abbiamo sperato di non essere di questa razza. Quando ai pugni e ai bastoni non potevamo che la preghiera, quando all'umiliazione e alla condanna non potevamo che la segregazione nell'ombra e non un Dio mai a fermare la mattanza millenaria, l'abuso prepotente del silenzio. Ci ho sempre avuto un coltello ficcato dentro, perché sono cresciuta che mi hanno detto che di desiderio si crepa. Allora quando ti dicono da sempre che alla pancia l'anima non va, che nella pancia e fra le gambe lo spirito non è che si mette a giocare, allora ti ci senti puttana e anche maledetta, e alla fine prendi un coltello e te lo ficchi lì per non sentire più quel calore, e ti ci abitui anche a portartelo, te lo tieni addosso come un marchio, un segno di riconoscimento, mentre trasudi puttaneria. Io la chiamo, la chiamo amore, amore, amore la chiamo. No, no, io non ti mostro cadavere, io butto giù tutto, croce e derelitti, e covo la nostra parola come una gatta, me la porto in giro, miagolandola al mondo, perché sono guarita, non ho più paura. Ora non ho più paura. Il nostro Dio non ha il sapore rancido del ben pensante, di quelli che rinunciano, si mortificano, di quelli che classificano l'amore al pari di un gettone di presenza a un talk show. No, per noi occorre vivere la gioia per riconoscere l'amore. Che cosa? Che cosa abbiamo fatto? Amore, che cosa abbiamo fatto a questa religione lorda e piena di sassi e piena di agonia? Che cosa abbiamo fatto a questo modo di inginocchiarsi sotto il ruvido di leggi sconnesse, maldette, inchiodati ogni giorno a un legno qualsiasi di punizioni e crocette a spunta del nostro martirio, uno per uno sotto controllo, uno per uno sotto pena, sotto giudizio, sotto privazione, sotto veli e armature di silenzi neri, e poi sotto, sotto, sotto, sempre più sotto, e sotto anche alle gonne di chi non regge il desiderio cane davanti ai ragazzini. Così, così, a vederlo da sotto le immaginette plastificate, sembra di sentire la voce sordida e sciacalla di un Dio a ore che smoccola cera ad uso e consumo di richieste e favori. Un'immaginetta povera d'amore, mendica, falsificata. Qualcuno a cui demandare la propria capacità di agire. Ogni Dio inventato e fasullo ha la sua sete e la sua fame di felicità e desideri, di gioia e spirito. Li fagocita, ne sputa via i rimasugli ciancicati, troppo pochi per pensarsi capaci dell'atto magico dell'amore. E il Dio dio della domenica mattina. Questo dio resta impigliato alle maglie feroci della mercanzia e si usura ogni speranza davanti a quella sua barba di omino cattivo, mentre l'umanità schiava si prostra e si consuma a cercare un paradiso da qualche parte, e dove non si sa. Tutte le fibre si spengono nell'atrocità di un tempo da calendario a stipendio fisso, mentre invece qualcuno ce l'ha. Qualcuno ancora ce l'ha la forza di agire la rivoluzione del mistero, dell'essere creatore di questo mondo, di questo stare ogni giorno a vivere, presenti, del sentirsi benedetto fin dall'inizio e divertirsi a tessere la vita possibile che fin da piccini si è sperato e immaginato fra i sogni e le visioni. Oh, tesoro mio grande, se di te avessero imitato l'amore e non il martirio, amore, amore, amore, facciamoci piccoli, piccoli, piccoli, per un momento, facciamoci piccoli, di pelle da sfiorare e labbra e gambe e grembo, diventiamo piccoli ignoranti, piccole bestioline appena nate, facciamoci così piccoli per il bisogno di un bacio, di una notte passata a intrecciare il sudore e l'umido dei nostri sessi affamati e ricchi. Scambiamoci il cuore per un momento, il muscolo però, il muscolo che batte, batte, batte furioso la sua danza rossa succosa. Amami, amami in questo tenero confine di carne che ho. Entra, entra e fatti strada, fatti annusare, fatti percorrere tutto e lasciami fare, lasciami fare l'amore degli umani, lasciami fare, e ovunque tu sarai io sarò. Io non mi redimo da nulla. Adesso io, semplicemente, mi riconosco. E adesso Elogio a perdere. È una traversata in mare, è una storia vera, di un gruppo di persone che ormai vediamo tutti i giorni, che non è arrivato perché per motivi politici è stato lasciato così, andare alla deriva, e sono morti tutti di fame e di sete. In quella barca c'era anche questa ragazzina piccola di 14 anni. È andata così. All'inizio mio padre lo amavo. Poi ci sono stati gli sputi, i calci e le maledizioni. Ci sono state lamette, lacci e cucita per sempre. Una bambina salame, insaccata. Una vitella di latte tutta da mungere e spezzare. Un giorno è arrivato mio padre con un tipo acido, troppo, troppo vecchio. Una bambina da banco, soda, tastata pezzo a pezzo. Prendi la roba e vattene via, ha detto mio padre. Rideva, sputava ed era contento. Io non avevo la voce. Ero morta e lontana. Sono uscita di casa dietro a quel tipo e ho smesso. Ho smesso di amare mio padre e non so come sia. Io non so come sia che ora sono qui sola. Sono sola qui che parto. Mi imbarco su una nave fatta di luna e di notte. È una fuga d'amore questa pazzia, amore per me. Ogni cosa brutta è lontana. Un ricordo non fa più tanto male. C'è chi resta per sempre a farsi rompere tutta, a farsi spaccare le ossa, a sentirsi meno di una pezza di casa. Io no, io no. Io mollo il passato e la puzza dolciastra di quell'uomo vecchissimo. Sono qui che parto, sono qui che parto. Caldo, caldo, caldo. Fa caldo, oggi fa caldo, non c'è molta acqua. Il tempo si allunga, il tempo si allunga. La barca svapora, si arresta. La vecchia carcassa si arresta, il tempo si allunga. Fa caldo, caldo. Il mare ribolle agitato, schizza, frusta. Ci batte i corpi impauriti. Il tempo si allunga, siamo tanti, tutti diversi, arrivati da chissà quale bestemmia o follia. Qualcosa di dentro tentenna, vacillano i sogni, i segreti di storie future. Il tempo si allunga il tempo corale di bimbi piccini, di gole grattate, sfiancate, mamme asciutte, di seni spellati. Il tempo si allunga, ma io so di un mondo bellissimo, di gente capace di fare l'amore. Il tempo s'allunga. Fa caldo, il tempo s'allunga. La costa, vedo la costa. Ci chiama, sorride, poi si rigira, torna lontana la barca, si dà alla risacca, scivola via. La corrente la desca. Il tempo s'allunga. Aspettare, il tempo s'allunga, aspettare. Breve miraggio di gente che sbraccia, poi se ne va. Non viene nessuno. Ci chiede che storia portiamo, se siamo bestiame, regine o marmaglia. Se il sale ha corroso le dita e i ricordi, se le labbra si sono spaccate e gli occhi hanno smesso di guardare. L'umido muffo ci ha tolto le ossa, se ci siamo già dati morsi randagi. Il tempo s'allunga, fa caldo, non viene nessuno. Il tempo s'allunga, la barca s'allarga. Dio del mare, chiama qualcuno con la tua voce grossa. Biscotti, briciole, poi nulla di più. Si fatica anche a leccare. Le tavole storpie grugniscono e latrano. C'è spazio, c'è sempre più spazio. Uno per uno si buttano giù. I corpi stracciati, i vecchi in disuso, bambini e bambine fanno le giostre. Treccine a colori si sciolgono in acqua, sfilano via, vestiti leggeri ondeggiano, zuppi. Fa caldo e il tempo s'accorcia. Adesso per la vita il tempo s'accorcia. Ma io so di un mondo bellissimo, di gente capace di fare l'amore. Lo so, me l'hanno detto, lo so. Mare mio, santo e sacro, mare mio di perle e di coralli, mare mio di odore forte e aspro, portaci a riva. Mare grande, tienici su che io ho paura e sto finendo tutti i miei pensieri e sto finendo tutti i sogni e anche le storie. Mare mio, tienici su che io non riesco davvero, non riesco più a sopportare, non riesco più a capire. Portaci a riva, portaci sulla terra ferma, che io non riesco più a sentire i suoni. E raccontami storie, inventa il miracolo della vendemmia nostra, uno per uno. Portaci a terra, mare mio, io non riesco più, davvero non riesco più a sentire il cuore e la pelle, non riesco a sopportare, non riesco proprio a capire, ho paura e sto finendo tutti i pensieri, non riesco a dire, io non riesco più a dire, mare mio, io non riesco più a dire, non riesco più a dire, non riesco più a dire, mare mio, non riesco più a dire. Laggiù nel mare, giù nel fondo del mare, io sento tante voci. Quando non vedi la faccia, l'ultimo sguardo vivo, come si è fermata in viso la vita attonita, vinta, contratta e macera di sale. Quando non vedi gli occhi cavi, la bocca aperta nell'ultimo tentato respiro. Quando non vedi, che sai? Che sai di me? Quando giri la faccia, che sai? Quando giri la faccia, chi sei? Chi sei? Io canto. Canto dalle viscere mie in catene. Canto il sangue riverso o portato lontano. Canto il remare a fatica, il carbone, i topi che siamo. Canto la pelle, la cinghia, la lingua indecisa. In fondo, laggiù, lontano, che quasi non lo vedo. Riverbero appena di sangue e respiri. C'è qualcuno. E qualcuno chiama. Come fosse me. Me. Lasciato piccolo sul fondo delle paure. O al centro di ogni speranza. Oh, sogni. Mani che tengono forte la presa della vita. E stringo il mio essere qui, la più bella cosa che c'è. Laggiù, in fondo, un corpo tradito, corroso dalla salsedine fino alla tristezza dell'anonimato. Io o qualcuno senza nome. Transumare verso un futuro possibile infinite voci di storie lontane e sotto pelle. Quel corpo è il diritto e il rovescio dell'amore, la luce. Il rischio e l'inganno sono storie vicine, come conchiglie incagliate negli scogli o gigantiche, come la semplicità di un abbraccio. Il pane spezzato e diviso, le risate dei bambini. Adesso leggo un pezzo da Antigone Pietas, che è un'altra delle donne che fanno parte di questo libro e di questa infinita popolazione al femminile che non si arrende. L'offesa più grave che vuole infliggermi questo creonte è dimostrare a tutti che sono meno di una cagna, una maiala da cortile, la puttana del buio. Antigone l'infetta, Antigone l'appestata, la sporca, la bestia sgrava bestemmie e che? Ho bestemmiato una legge in cui non v'era manco il riverbero di un dio dentro, sì. Sì, sono una bestia. Quando la vita è negata, che ha da fare? Se non prendere la misura della bestia e ringhiare forte e strappare e gridare per farsi sentire, che cosa ha da fare? Se non tentare una via d'uscita in qualche maniera? Tu hai paura. Creonte, tu hai paura di me. Hai paura perché io no. No, io no. Non sono un animale. E non sono ancora morta, e di sicuro non mi ucciderai tu. Nessuno deve ascoltarla, Antigone. Può guardarla, toccarla, immaginarla nemmeno, sognarla, soltanto nominarla, figuriamoci, amarla. Che il contagio dell'amore non fa che insultare la ragione di tutti, ammalare la città. Che a darle retta si può solo perdere la partita. Oppure no. No, Creonte. Questo amore renderebbe soltanto l'uomo più uomo. Lo renderebbe un essere vivo e brillante, perché è quando non si è amati che qualcosa si spegne. È quando non si è amati che qualcosa non fa che morire in ogni istante. Quando non si è amati è come se una umiliazione salisse su e cadi, cadi. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi, Creonte, eh? Che cosa vuoi? Condannarci a essere soli? Vuoi levarci tutti i fratelli e le sorelle? Levarceli tutti? Finché su questa terra non rimarrà che un'aridità di corpi vuoti, la disperazione esiste. Ovunque l'uomo è sacrificato, Creonte, e con la disperazione la città non fa che morire, mentre nel cavo d'ogni grotta la vita scalpita e geme. I rimasugli del tuo potere invadono le strade di macerie e spazzatura. Il brutto appesta ogni angolo di casa. Costruirai così le nuove città? E che cosa ci metterai dentro a crescere, eh? Obbedienza? Solo la frusta dell'obbedienza e cervelli come un che di carne, senza respiro. Tu sei un furbo. Tu sei un furbo. La forza può, anche senza uccidere, fare dell'uomo ancora vivo una cosa: ubbidire, ridurre il tuo popolo in questa prostrazione, farlo arrancare, farlo strisciare giù al pari della miseria. Questo ti basta? Davvero? Veramente questo ti basta? Allora il problema non è la legge, ma il potere. Chi scrive la legge degli uomini non dovrebbe avere potere. Dovrebbe essere uno come tanti, perché al di sopra della legge, Creonte, risiede la giustizia. E non mi dire che anche tu hai un Dio che ti serve, perché nessun Dio ha mai fissato una legge così schifosa fra gli uomini. Solo l'uomo tradisce l'uomo. Ma ora basta. Basta, finito, basta, basta. Noi ti abbiamo capito. Ti abbiamo visto. Io, pur ferita a morte, parlerò ancora d'amore, e dalla mia sepoltura nasceranno infinite creature. Infinite creature. Finché non ritroverò il nome per ogni cosa e gli occhi di nostro padre. Quanti uomini a pezzi abbiamo visto, per le città, per i deserti secchi, senza acqua e pelle a tenerli intatti. Quanti soldati fra le montagne, o nelle vallate, o nel nero dei boschi più profondi, abbiamo lasciato così, non sepolti, non ritrovati dalla madre o dalla donna che li amava. E poi quanti padri hanno puntato verso una città possibile, un paese accogliente, e hanno per questo sfidato il carattere selvatico del mare, i giorni di sole a picco e una barca troppo piccola per starci tutti insieme. Poi sono restati là in fondo, fra le alghe e il sale, o piegati, o pigiati come uva nelle stive. Si sono presi a morsi perché l'aria era troppo poca per tutti e nessuno ne poteva lasciare un pezzetto all'altro. E poi là fuori, là, poi la vita li avrebbe tirati su come figli nuovi. Quanti ne vogliamo ancora fare di questi corpi insepolti? Quanti ne vogliamo ancora contare di sudici salati, mendicanti d'amore e pane? Quanto ancora ne avremo da lasciare soli? Io no, io non condivido l'odio. Io Condivido l'amore, fratellino. Fratellino mio, fratellino non sepolto, fratellino mio. Lasciato straniero, fratellino mio, come tutti, fratello mio. Fratellino mio, fratellino senza bandiera e senza elmetto. Fratellino senza medaglie e senza onore. Fratellino morto qualsiasi dolciastro e muffo. Fratellino a marcire come la carne inverdita. Fratellino con le mosche, con lo sgrondo fra le gambe. Fratellino spellato, impastato di terra e piscio. Fratellino sgozzo, insaccato come un maiale. Fratellino spoglio, letame e farabutto. Fratellino consumato, sbianco e rigido. Fratellino nemico, fratellino dall'altra parte, con tutto lo schifo che c'è in giro, con tutto lo schifo. Non ci si vergogna di tutto lo schifo, non ci si vergogna, ma ci si vergogna di dire amore. Ci si vergogna di dire amore e non ci si vergogna di tutto lo schifo che ogni giorno vediamo in giro. Ci si vergogna di dire amore. Fratellino di ricordi e di giocattoli. Fratellino di pane spezzato e latte diviso. Fratellino di bici, ricordi, nascondino. Io non sarò una tomba. Promesso. Promesso, farò qualcosa di me. Lo farò, promesso. Ne sono capace. Qui dentro, in questa grotta dove Creonte ha voluto seppellire questo amore, qui dentro ci troverò tutto il possibile per la resurrezione, anche se ci metterò secoli a uscire, anche se ci metterò secoli a rialzarmi da questa prostrazione dove m'hanno ficcata. Io ho fiducia solo in quella luce che s'accende dove maggiore è l'oscurità, facendo di essa un cuore. Adesso leggo uno stralcio dal romanzo Dalla pelle al cielo, che è un diario di una ragazzina che scrive nel periodo che va dai 12 ai 14 anni e scrive a questo diario, che è il suo unico confidente amico prima di incontrare una grande donna che l'aiuterà, Angela. A questo suo amico lei confida quello che vede nella casa, la violenza che il padre fa nei confronti della madre e gli abusi che lei subisce da parte del padre, anche se poi scopriamo in questo diario che lei per molto tempo non capisce, non riesce a capire che cosa succeda. Lei subisce abusi da quando è piccola piccola, per cui non può più distinguere, finché qualcuno non l'aiuterà a farlo, che cosa è successo. Se i manicomi fossero aperti, io ci sarei dentro a creparci con l'elettricità nella testa. Forse sarebbe anche meglio, sarebbe proprio bene, perché una pazza cretina come me non ci deve stare nel mondo. Io ho voglia di urlare, è notte, sono sul davanzale, non so se buttarmi giù e farla finita, finalmente farla finita, forse sì, forse finisco di scrivere questo diario e mi butto. E dovrei fidarmi di me, io dovrei fidarmi di me, ma che mi fido io, che ogni volta faccio uno sbaglio. Dopo la scuola ho visto mio padre. Gli avevo portato della roba, mutande, spazzolino. Allora lui è venuto con la macchina a scuola e io stavo male, mi sentivo imbarazzata e anche colpevole di averlo cacciato, perché forse l'avevo fatto cacciare via io da casa, non lo so. Comunque sono salita su e lui, invece di prendersi la roba e andarsene, ha acceso l'auto ed è partito. Mi ha detto che aveva tutto il diritto di farmi vedere dove stava adesso e che poi non è che poteva prendersi la roba così, senza una valigia, una busta, manco fosse un barbone. Allora siamo arrivati al suo albergo. mi ha detto di scendere, ma a me non andava, avevo proprio paura. Avevo negli occhi il ricordo di mia madre sempre a pezzi, avevo paura. Dai, vieni a vedere dove dormo adesso. Portami le cose, no? Mica posso scendere con le mutande in mano, no? Che figure mi fai fare, no? Non posso, dai, mi aspettano tutti, poi faccio tardi per pranzo. Ma che dici? Ma che stai dicendo? Ti ho detto che ti voglio bene, no? Ti riaccompagno subito, ti porto subito a casa e ti lascio lì. Ti lascio lì da sola se non volete che io salga. Fidati, no? Sono tuo padre. Insomma, vuoi venire a vedere dove sto o no? Allora mi ha preso per un polso e lo teneva così stretto che secondo me quasi me lo rompeva. Non c'era proprio modo di liberarsi. Mi diceva di andare, di stare tranquilla. Io ho provato a non entrare in albergo, ma poi mi sentivo anche una stronza e avevo un sacco di dubbi perché pensavo che forse c'aveva ragione, che comunque era mio padre e potevo anche star tranquilla, che forse esageravo a non volere nemmeno salire su. Ho provato a fermarmi, a tirare via il polso, ma lui mi teneva in maniera tremenda. E poi le sue parole sono sempre gentili, mi sviano, io non lo capisco. Comunque siamo saliti su, caro Diario. Ecco, che problema c'è? Tutte ste tragedie. Volevo farti vedere dove sto adesso, no? Mica ti rubo tanto tempo. Dammi pure le cose e andiamo. Eccole. Beh, adesso non mi parli più? Io? No, io. Certo, te. Ma non lo vedi dove sono finito? Ti sembra giusto questo? Non lo so, ora dovrei andare. Sì, ora ti porto, ti ho detto. Ma tu guarda se è giusto che uno sia cacciato dalla propria casa così. Ti sembra giusto? Ti chiedo se ti sembra onesta una cosa del genere. Niente, non rispondi. Dimmi, ti sembra bello? Ti sembra che io stia bene qui da solo? No, non lo so. Ma non lo so. Ma che cosa non sai? Dimmi se ti sembra giusto che un disgraziato che ha messo su famiglia, che ha una figlia bella come te e una moglie che lavora dalla mattina alla sera, debba essere buttato fuori da casa sua. Un uomo può perdere tutto così all'improvviso? Può restare solo come un cane? No, cioè, non lo so. Forse non è giusto. Cioè, sì, credo. Forse sì, forse soffri. Ma io devo andare, mi dispiace tanto. Ma vieni qui. Vieni. Dai. Dai, fammi due coccole. Fammi un po' di coccole, dai, prima di andare. Tu sei l'unica persona sulla quale posso contare. Perché tua madre mi ha cacciato. Eh? Perché lo ha fatto? Perché mi ha cacciato? Perché io lo so che è lei che mi ha buttato fuori e non te. Non mi hai cacciato te. Lo so che non sei stata tu. Io e te siamo sempre stati tanto legati. Hai visto? Io non ti ho mai fatto male. E perché? Perché io e te abbiamo lo stesso sangue. Io e te siamo uguali. Vogliamo le stesse cose. Sono gli altri che non capiscono. Ah, non ci capiscono, piccola mia. Abbiamo un segreto, io e te. Vieni, dai, fammi un po' di coccole. Prima di andare, fammi un po' di coccole. Poi ti riporto. Mica ti voglio fare sgridare, mica ti voglio fare tardare con gli amici. O fare arrabbiare la mamma. Ti rispetto io. Io ti rispetto, rispetto tutte le tue cose. Noi siamo uguali. T'ho detto, siamo uguali, io ti rispetto. Vieni, dai. Fammi due coccole, dai. Allora a quel punto sono quasi morta. Cioè, non era possibile che stavo lì. Che stavo di nuovo in quei casini. Cioè, non era possibile che mi voleva fare ancora tutto. Da quando siamo arrivati fino ad allora non mi aveva mai lasciato il polso. E questa era la cosa che mi faceva più paura di tutti. Mi sembrava che mi cadesse la mano. Ma che hai capito? Ma che pensi? Ma guarda che hai capito male. Non devi mica avere paura. Mica intendo quelle cose che pensi te. Ma guarda, cioè C'hai sempre la testa lì, tu. No, io voglio solo delle coccole vere. Vieni qui, dai, abbracciami. Abbracciami soltanto, solo un abbraccio, basta. Allora, mentre mi diceva che non dovevo pensare alle cose di sempre, mi sono sentita proprio una merda. Ero proprio una stronza che pensavo subito a quello, che pensavo subito al sesso, una stronza schifa, perché poteva anche capitare che lui mi volesse abbracciare solo per quello, perché mi voleva bene e basta, no? Quindi io ho ceduto e sono andata verso di lui per abbracciarlo. Lui si è alzato in piedi e perciò eravamo abbracciati in piedi. Mi parlava, diceva che tutto sarebbe cambiato, che non mi sarei dovuta più preoccupare perché aveva capito tutto, lui era cambiato e eravamo abbracciati, nient'altro. Siamo restati qualche minuto così e poi mi ha riportato a scuola. Lui diceva che mi abbracciava da padre, che era mio padre. Però, Diario, ascolta, Diario, però io, scusami, io lo sentivo che mentre mi teneva stretta, appiccicata addosso a lui, in realtà, ecco, era come se si strusciasse. Era come se mi toccasse con tutto il corpo e mi teneva strettissima. Poi a un certo punto ho pure sentito che c'aveva l'eccitazione, si era eccitato sotto e io c'avevo una scossa elettrica per tutto il corpo e potevo crepare anche subito. Io lo sentivo che si strusciava per provare piacere. E poi si è staccato e basta. Allora conto su di te, amore. Io e te ce la faremo a tornare insieme, lo sento, ti voglio bene, vedrai, tutto si sistemerà. Non preoccuparti, amore. Oddio, adesso che devo sentire? Ma che devo sentire? Io non lo so. Forse ho sbagliato, forse in verità lui mi abbracciava senza pensare niente, io mi sono sbagliata, non era vero che si era eccitato, eppure me lo sentivo addosso e me lo sentivo strusciare sotto e sentivo il calore, ma che puttana che sono! Forse sono solo io che vorrei tutto questo, forse sono io che c'ho sempre in testa che lo voglio e sono proprio una puttana schifa. Lui mi voleva soltanto fare da padre in quel momento, forse era così, forse mi voleva solo come sua figlia, non lo so, non capisco niente, ma perché sono andata lì? Potevo non andarci, no. Ora ho così tanta confusione. Lui mi distrugge con la confusione, come quando mi fa i regali. Lui mi fa i regali e poi mi distrugge.